fa una versione che contrasta con altri elementi obiettivi che abbiamo a disposizione, c'è pure, naturalmente bisogna che uno prevalga sull'altro, e questo è il punto. E allora quindi naturalmente c'è questa possibilità, ma fino a un certo punto, insomma. Ma lei vede, cioè, che cosa vede in questa situazione? Una sorta di conflitto? Cioè, perché voi insistete a dire sceglieremo un'altra data, proporremo un'altra data, questa è la posizione. Questo in effetti sì, perché a prescindere dal fatto che oggi, come oggi, qualsiasi cittadino, per quanto riguarda il potere giudiziario, non è che si può sottrarre a suo piacimento all'esame da parte dei magistrati che indagano. Anche lo stesso Presidente della Repubblica può essere sentito come teste, anche se ha delle prerogative di essere sentito al Quirinale e altro, ma non è che si può sottrarre al suo piacimento. Ma secondo lei questa memoria difensiva è un tentativo per sottrarsi al faccia a faccia? No, può essere appunto tante cose, cioè si può fare, oltre che le modalità di tutta l'attività della vicenda, anche fare delle eccezioni di carattere sulla competenza, dato che ci sono anche vari procedimenti in corso, quindi ora dobbiamo leggere, appena arriverà la leggeremo e valuteremo. Cioè lei pensa che potrebbe esserci anche un sollevare un'eccezione sulla competenza, cioè non siete competenti voi a Napoli? Ma questa è la questione della competenza, i primi a sollevarla siamo stati noi. Cioè nella richiesta che abbiamo fatto al GIP abbiamo, perché ci rendevamo conto della situazione, delle ipotesi di competenza. Noi si ritenevamo che allo stato degli atti eravamo competenti noi, però non escludevamo la possibilità di competenze di altri uffici. È passata l'esame del GIP, il quale invece ha riconosciuto che noi allo stato siamo competenti e quindi stiamo andando avanti. Ora altre eccezioni sono state fatte dalla difesa e che naturalmente verranno vagliate non soltanto da noi ma soprattutto da altri organi ai quali compete la decisione sulla competenza. Senta, ha sentito che, non so se le interessa, che il Presidente del Parlamento Europeo ha detto per l'incontro di oggi a Berlusconi possiamo concedere 2 minuti, non di più. Questo le ma fa fare... Guardi, noi sul merito è una... sul merito della questione, dei motivi che hanno indotto il Presidente ad andare a Bruxelles, non possiamo naturalmente fare alcuna valutazione se non quella formale, non possiamo entrare nel merito, sono valutazioni che deve fare lui nell'esercizio delle sue funzioni, quindi noi ci atteniamo, abbiamo accolto il legittimo impedimento e quindi passiamo ad altra data da fissare. Ad altra data, lei quindi insomma questa è la dichiarazione formale, non ha mai avuto il dubbio, non è mai stato percorso dal dubbio che sia un viaggio un po' di comodo, no? No, io anche se l'avessi questo dubbio rimarrebbe in me, non lo potrei esternare. Non ce lo direbbe. Va bene, intanto procuratore la ringrazio, stiamo a vedere questa memoria difensiva cosa ci sarà. Grazie, buona giornata. Il procuratore di Napoli, capo Giovan Domenico Lepore, questa memoria difensiva che appunto verrà depositata dai legali di Berlusconi oggi a Napoli, vedremo che cosa c'è scritto in questa memoria difensiva. Intanto noi ci concentriamo, insomma sono sempre i giorni della manovra, appunto Berlusconi è andato anche da Barroso, va da Barroso a spiegare la manovra e nella manovra torna prepotentemente la questione dell'evasione fiscale, la lotta all'evasione fiscale. Oggi ne parliamo con una proposta dopo la pubblicità del vicepresidente della provincia di Reggio Emilia che dice è molto semplice, basta controllare chi è iscritto in palestre, cinema, circoli, hai la pay tv, che bollette hai... Insomma, una sorta di grande fratello, ti stano così, caro evasore fiscale. Che ne pensate? 800 24 00 24, tra poco. 24 mattino. Allora, eccoci qua, 8 e 35 minuti, ai messaggi al 349 238 6666, già ci scrivo e la gente dice, bene, giusto, controlliamo chi si iscrive ai circoli, alle palestre, chi ha la pay tv, perché questo potrebbe raccontare molto sui redditi non dichiarati degli italiani. Insomma, che ne pensate? 800 24 00 24, la lotta all'evasione fiscale, fare le pulci ai contribuenti, andare a vedere che cos'hanno, che cosa fanno nella loro vita, insomma, perché hanno delle bollette particolari, perché hai la Pay TV. Voglio saperlo, incrociare i dati e sapere tutto di te. Ne vogliamo parlare con il vicepresidente della provincia di Reggio Emilia, assessore anche alle attività produttive, Pierluigi Saccardi, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è anche autore, di animatore, posso dire, di un blog. Ci si entra in questo blog per vari indirizzi, per esempio iopagoletasse.com. Io ho fatto questo e ci sono arrivato, sì, giusto. Poi anche punto com. Comunque www, se la vogliamo mettere così, punto eroifiscali.it. Chi sono gli eroi fiscali? Bella definizione, non è mia, del Sole 24 Ore, che ha fatto un bel fondo in agosto quando si parlava di evasione fiscale, dicendo, tacciando, tra virgolette, passatemi il termine, quelli che pagano le tasse come eroi fiscali, visto i dati che ci dà l'Agenzia dell'Entrata e i 120 miliardi di evasione fiscale che ormai sono riconosciuti da tutti. Quindi lei, insomma, è l'animatore anche di questo blog Io Pago Le Tasse, cioè ci sono le magliette, i cappellini, Io Pago Le Tasse, cioè l'orgoglio del pagare le tasse, no? Nella situazione in cui siamo, secondo me bisogna richiamare tutti gli italiani a uno sforzo comune e quindi vedere di recuperare un po' di senso etico, di senso civile. Adesso ci spiegherà come. Intanto mi faccia salutare il professor Carlo Lottieri, che insegna dottrina dello Stato a Siena, è cofondatore dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno professor Lottieri, eccoci qua. Buongiorno. Allora Saccardi, la questione è questa: io ho letto da qualche parte che voi volete far partire un sistema messo a punto da lei, tra l'altro, che praticamente cos'è, se io lo chiamo una sorta di grande fratello fiscale, lei già si arrabbia? Saccardi. Non ha questo tipo di ambizione e l'abbiamo messo a punto insieme al Centro Studi dell'Emilia Romagna, della Regione, assieme a un consigliere regionale e ad altri soggetti, l'unità anticrisi della provincia di Reggio Emilia, semplicemente per verificare quella che può essere il superamento dell'ISA, che oggi è lo strumento che viene utilizzato, sì, per la misura delle prestazioni del welfare. E come si supera questo ISA secondo lei? Guarda, intanto l'ISE è del 98, quindi è superato nei fatti, nel senso che la normativa non è mai variata più di tanto, ma oggi per avere la misura di quanto le persone compartecipano alla spesa sociale, banalizziamo, dall'assegno del nucleo familiare all'assegno di maternità, alle mense scolastiche, l'asilo nido, servizi per l'infanzia, le case popolari, i ticket… lo strumento utilizzato è appunto l'ISE. Si supera trovando degli elementi di spesa che sono non più verificabili con la semplice denuncia dei redditi, perché se è vero il dato che riportavo prima, evidentemente anche le denunce dei redditi sono falsate. Insomma, parliamoci chiaro, voi volete con questo sistema, che prevede anche un algoritmo eccetera, controllare, non so, per esempio, se io ho Sky, mettiamo la Pay TV, no, più famosa, oppure se io ho un abbonamento a un centro benessere o a una palestra o ho l'auto in un garage, quindi pago, magari posso permettermi di pagare un'auto in un garage, cioè volete controllare queste cose, insomma, dei... Non è che noi vogliamo controllare, diciamo semplicemente che per l'accesso alle prestazioni del welfare a qualsiasi livello, se tu mi chiedi, questo è il principio, io ti verifico, se non mi chiedi, quindi compartecipi avendo a cuore quello che è il bene comune, se tu non mi chiedi nulla non ti verifico, ma dal momento in cui vieni a chiedere soldi pubblici, in sostanza, quindi l'accesso ai servizi che vengono pagati dalla fiscalità generale, è chiaro che io devo avere la certezza che tu sei in uno stato di bisogno. Per verificarlo, per esempio, se scopro che tu mi chiedi un qualcosa e poi, che ne so, vai alla Beauty Farm tutte le settimane, c'è qualcosa che non va, ecco. Beh, guarda, il problema oggi è di capire quali sono i bisogni primari e i bisogni secondari. Naturalmente nessuno vieta nulla a nessuno di fare niente, però lei darebbe un'agevolazione per l'esenzione della mensa scolastica o il rinvio della bolletta di un mutuo a una persona che spende i soldi alle macchinette a giocare o a giocare ai giochi d'azzardo? Anche quello vorreste sapere, insomma, se uno gioca d'azzardo. Guardi, il modello è un'autocertificazione, quindi dopo il sistema prevede naturalmente una serie di controlli che si possono fare tramite convenzioni e naturalmente qua ci sono i vari livelli di competenza, non solo quelli dei comuni ma della regione e addirittura dello Stato, perché bisogna arrivare alla cosiddetta tracciabilità di un certo livello di spesa. Però interessante, professor Lottieri, facciamo una prima considerazione. Mi ha molto colpito questa idea del vicepresidente della provincia di Reggio Emilia. Nessuno vieta nulla, per carità, nessuno vieta nulla, siamo un paese libero. Però se tu chiedi soldi pubblici, esenzioni, però se mi vai poi a teatro tutte le settimane, hai la pay tv, vai al cinema, hai l'abbonamento alle riviste, vai in palestra, in beauty farm, c'è qualcosa che non va. Il principio le sembra corretto, professore? Ma il principio fa parte di una certa logica. Il sistema fiscale e da un lato il welfare alla fine sono destinati a ottenere questo risultato, cioè c'è l'esigenza di un controllo totale sulle nostre vite, questo mi sembra abbastanza evidente, una trasparenza assoluta. Il sistema fiscale ha bisogno di sapere in ogni momento quali sono i nostri redditi e quindi ha bisogno di controllarci in ogni fase della nostra vita. E il sistema di welfare, appunto, che è basato su queste tariffe in qualche modo discriminatorie che favoriscono chi ha redditi più bassi, ha ugualmente bisogno, appunto, di seguirci passo passo. Il riferimento che lei faceva prima, Grande Fratello, è molto significativo. C'è anche evidentemente però un problema tecnico, io credo, in questa logica, ovvero sia che tutta una serie di situazioni possono essere legate più al capitale che al reddito. Io sono un ricercatore universitario, quindi con un reddito modesto, ma un mio collega, che quindi ha il mio stesso reddito, ha una Ferrari. Perché? Perché suo papà era ricco, ma il suo reddito non è un reddito elevato. Questo è interessante, ha ereditato una Ferrari ma il reddito è uguale al suo. Questo effettivamente è un punto sul quale vi siete interrogati, Saccardi, perché questo sistema, tra l'altro, come si chiama questo sistema che vorrebbe mettere in soffitta l'ISEE? Computer, è giusto? Il sistema è computer, che computer è un acronimo che è la certificazione equa e misurata delle utenze Emilia-Romagna, però è un modello perché che si può estendere. Un'equazione con dei pesi, ogni elemento può essere soppesato con delle differenti misure da chi fa le prestazioni del welfare, quindi un comune o le case popolari, gli ACER, possono dare peso alle diverse ai diversi elementi che compongono l'equazione. Però poi senta, c'è un algoritmo finale. E poi c'è l'algoritmo che insomma mette tutto in ordine, insomma, per capire. Però ha sentito l'obiezione anche il professor Lottieri, un po' da Grande Fratello è l'idea. Cioè, io capisco che ci sono tanti furbetti, però questa idea di andare a controllare per esempio i patrimoni che magari io prendo in eredità, però il mio reddito è magari inferiore rispetto al mio vicino di casa, anche se giro in Ferrari, può sembrare un paradosso, ma c'è anche questo paradosso. Assolutamente, però guardi, nei casi pratici, diciamo che io non pretendo, il sistema non pretende di arrivare ai casi estremi, però il professore universitario sa benissimo che se va in mezzo ai suoi studenti verificherà che una delle cose che viene detta tra studenti, come mai il figlio del tale ha l'esenzione dalla mensa universitaria, oppure banalmente come fa l'ACER di una certa provincia dell'Emilia Romagna a erogare una prestazione agevolata sull'affitto a uno che possiede un Porsche Cayenne, perché l'ISE non misura il reddito, quindi bisognerebbe capire come funziona oggi l'ISE, funziona che norma esclusivamente il patrimonio con esenzione della prima casa e incrocia i dati con il reddito dichiarato, e siccome il reddito dichiarato, lo abbiamo detto prima, non è sufficiente per verificare lo stato di bisogno di una persona, perché c'è l'evasione fiscale, perché ci sono comportamenti di spesa che pretendono di far pagare al pubblico quello che invece è una voglia, la vogliamo chiamare così, bisogno secondario. No, ma certo, allora io su questo, professor Lottieri, effettivamente un po' un'idea da Grande Fratello, cioè di controllo, no? Di controllo di tutto quello che facciamo nella nostra vita. Però il principio di base è che ci sono i furbetti, no? I furbetti del quartierino, cioè quello che chiede l'esenzione non gli ha diritto, e quindi forse come contromossa ecco che allora nascono queste iniziative, o no? Che ci sia un problema di equità è fuori discussione, al tempo stesso a me spaventa un aspetto ed è questo, oltre al riferimento al controllo totale di cui si è detto. Quello che mi spaventa è che non si rifletta a sufficienza sul fatto che l'Italia ha i vertici assoluti della pressione fiscale nel mondo e che il nostro problema non è già di fare la caccia all'evasione, come si dice da parte del governo e da parte dell'opposizione, perché l'evasione massiccia che esiste in Italia è proprio il segnale di un livello insopportabile della pressione fiscale, e questo paese non riuscirà, come dire, a risollevarsi e quindi nemmeno, come dire, a risolvere i propri problemi di finanza pubblica, se non, come dire, taglierà le spese. Il vero problema è quello: più che andare a cacciare chi non paga le tasse, bisognerebbe andare a ridurre come dire, le fonti della spesa che sono origine di una pressione fiscale troppo elevata. Questo mi sembra che non si voglia vedere, e questo credo avrà conseguenze gravissime sul nostro futuro. Allora, 8:47 minuti, eroifiscali.it, insomma questo blog tra l'altro animato dal vicepresidente della provincia di Reggio Emilia, che è qui con noi a spiegarci questo nuovo strumento. Senta Saccardi, però posso rivelare quello che lei ha detto ieri alla mia collaboratrice Elisabetta Fusconi quando vi siete sentiti? Posso rivelare tutto, no? Perché lei ha detto: a me magari mi chiedono un'esenzione, non so, in un comune mi chiedono l'esenzione dalla mensa, e poi scopro che chi mi chiede l'esenzione, i genitori di questo bambino, c'hanno la pay TV, e a me questa cosa fa girare le balle. Però cosa vuol dire? Cioè, dobbiamo imporre una persona, come dice lei, a mettere le priorità dei consumi? Cioè, uno non si può, se chiede l'esenzione della mensa prima, disdici l'abbonamento alla TV a pagamento, perché sennò è un lusso che non ti puoi permettere? No, guardi, nessuno vuole normare nulla. Il principio è quello che dicevo all'inizio: se mi chiedi ti verifico. Quindi se uno non pensa di essere nella situazione vera di bisogno, non chiede l'esenzione o la compartecipazione parziale a una spesa del welfare, e quindi evita qualsiasi tipo di verifica. Il problema è questo: siccome la base dell'equometro, questo strumento, sono soprattutto quello che già oggi esiste, i redditi e il patrimonio, ma ci sono comportamenti di spesa e redditi che non vengono misurati. Ho capito, ma questi comportamenti quali sono? Appunto le palestre, la pay TV, le beauty farm, cioè... Prima ho fatto l'esempio del Porsche Cayenne, e naturalmente si chiedono tutti questi elementi, possono avere dei pesi all'interno dell'equazione anche poco significativi. Però non è una colpa avere il Porsche Cayenne, assolutamente è una scelta, no, anzi, ma per l'amor di Dio, è una colpa invece andare a chiedere il rinvio di una bolletta avendo il Porsche Cayenne, chiedendo allo Stato, quindi quei soldi della fiscalità pubblica e di tutti, l'esenzione del pagamento della mensa. Vediamo, è interessante come approccio. Per lei è una colpa, professor Lottieri, cioè avere il Porsche Cayenne e chiedere un'esenzione fiscale? Di per sé? No, non credo che sia una colpa, mi sembra una cosa molto complicata. Ricordo quando ero bambino in un paese della provincia di Brescia, che una delle famiglie più povere del mio paese, una famiglia di immigrati, si caratterizzava per il fatto di avere una motocicletta grossissima, chiamava Laver da 1000, no? Ma è tipico spesso, no, di famiglie, come dire, a basso reddito, di investire tutto in una certa direzione, perché fa parte di una certa anche incultura, no? È uno degli elementi, come dire, che uno deve superare. Però vuol dire che non era poverissima, perché aveva un capitale questa moto. Non era poverissima, ma in realtà aveva investito quasi tutto lì, perché è come i bassi di Napoli, voglio dire, che magari avevano certi, negli anni scorsi, oggetti di lusso che non si trovavano altrove. Quello che a me fa spaventa è il moralismo un po', no? Di tutto questo, cioè non si può andare a sindacare nelle scelte. C'è un po' di moralismo, Saccardi, cioè io posso avere 15 telefonini di ultima generazione, sì, che magari, beh, c'è un po' di moralismo però nel dire: se tu hai 15 telefonini però non mi venire a chiedere dei soldi, vendine 14, ma se io voglio avere la libertà perché sono stupido di avere 15 telefonini. Certo, lo può fare benissimo. Basta che non usi i miei soldi per darle le prestazioni, perché o capiamo il concetto che la fiscalità generale sono soldi di tutti e quindi devono essere usati bene, se no, guardi, quegli esempi che vengono fatti, chiedo scusa al professore, sono esempi probabilmente estremi. La generalità dei soggetti invece, nella pratica, io cito il rapporto ISE della Camera dei Deputati, su 14 milioni di denunce ISE sono state verificate, e questo è un problema di controlli, solo 10%. Confidando nel non controllo si dà adito a comportamenti che sono sicuramente sanzionabili. Nella pratica noi capiamo e vediamo tutti i giorni, basta parlare con le persone, di comportamenti nelle prestazioni, le ho citate prime, dall'asilo nido alla mensa universitaria, alle case popolari, di gente che chiede l'esenzione e poi c'ha uno stile di vita diverso. E voi volete controllare? Crea disparità, perché chi ha un reddito dichiarato di 36.000 euro, prendiamo la media, lei sa che il 90% delle denunce fiscali sì. sono sotto i 30.000 euro sì, circa, sì, sì. Do un dato generale pubblicato per la verità da tutti i giornali. Bene, che cosa mi dice il professore rispetto a uno che dichiara 36.000 euro e quindi non ha diritto alle agevolazioni o un altro che ne dichiara 20 ma che ha comportamenti di spesa, quindi vuol dire praticamente di che ha dei flussi di denaro in nero, così ci capiamo. Ho capito, ma c'è l'agenzia delle entrate che va, che dovrebbe controllare. Però dice, ha detto bene, dovrebbe. Dovrebbe, e vabbè, quindi ci sono strumenti, come dice il suo, quello messo a punto da voi, che potrebbero supplire alla mancanza dell'agenzia delle entrate. Vorrei sentire che ne pensa Mirko da Milano, 800 24 00 24. Mirko, buongiorno. Sì. Buongiorno, dica. Ma io vorrei mettere una pietra sopra una volta per tutte, io vorrei dire che l'evasione in Italia non c'è, assolutamente, non c'è. Vi spiego subito il motivo, cioè, mi spiace che gli amministratori perdano tempo su questo aspetto. Si è svegliato, ha deciso di ammattire questa mattina, lei Mirko. No, ma le spiego molto tranquillamente, sì. Cioè assolutamente è una cosa molto molto logica, fatto 100 una base di partenza, noi paghiamo 102 evadendo il 30, diciamo gli stati virtuosi dicono che vadano il 7-8, già solo se ci fosse una legislazione fiscale a livello europeo, probabilmente noi andremmo a risparmiarci e gli evasori scomparirebbero, perché ovviamente se gli altri pagano meno, evadendo di meno, noi... Cioè il problema è sempre la forte pressione fiscale. No, ma le spiego pure anche un innalzamento del tetto pubblico, quindi adesso c'è, passa in Costituzione il fatto che c'è un tetto del debito, cioè... anche la crescita, quindi gli amministratori non hanno rilanciato l'economia, quindi questo è stato un fallimento per loro. È chiaro che mancando la crescita aumenta l'evasione, è inutile aumentare le tasse perché c'è un debito. Insomma, troppa pressione. Lei è chiaro, troppa pressione fiscale, come ci ha detto il professor Lottieri, e mancanza di crescita, una manovra tutta tasche, mani nelle tasche, poco sviluppo, poca crescita, e quindi questo porta a incentivare l'evasione fiscale. E, Saccardi, qui dobbiamo concludere tra un minuto. Chiedo scusa, ma guardi che il sistema serve esattamente per il contrario, perché l'evasione fiscale la si combatte, si abbassano le tasse, se le tasse le pagano ci sono soldi per tutti. Questa è, come sa però professor Lottieri, questa è una versione che il mio amico Oscar Giannino contrasterebbe saltando in testa subito a Saccardi. Dice se tutti pagassero le tasse ci sarebbero più soldi per tutti, è così oppure lo Stato se li terrebbe? Giannino version, Lottieri. Sì, certo, è chiaro che c'è una voracità dello Stato che è senza limiti. E poi c'è anche un'ultima cosa, secondo me, che forse è il caso di sottolineare, sì. Che tra gli eroi fiscali formali ci sono anche, lo dico da statale, molti che nel settore pubblico fanno veramente poco, che hanno una posizione di ruolo, cioè inamovibile, che quindi hanno un posto fisso, e quindi tutta questa virtù, come dire, andrebbe anch'essa messa un po', no, in discussione, laddove invece è ovvio che tra, come dire, i cattivi c'è gente, come dire, che si trova ad avere una posizione molto più precaria, e anche questo andrebbe valutato. Intanto Saccardi, allora lo vogliamo ricordare, eroifiscali.it, noi la richiameremo prima o poi, perché guarda, volentieri. Vogliamo intanto so che il suo modello è stato preso a esempio, credo, non solo a Reggio Emilia, no? Credo diverse amministrazioni. Ce ne dica due o tre. Sperimentazione, perché siamo a livello di sperimentazione. Ce ne dica due o tre. Le verifiche e i controlli da altri comuni, gli altri dell'Emilia Romagna, la provincia di Bologna e anche fuori regione. Cioè chi per esempio? Chi è che subito ha detto siamo interessati al vostro strumento? Gli ACER dell'Emilia Romagna sono quelli che delle case popolari, alcuni comuni e la provincia di Bologna e il comune di Reggio Emilia. Il comune più importante fuori dall'Emilia Romagna? Il comune più importante con cui abbiamo avuto un primo contatto informale è il comune di Milano. Ah, Milano, ah beh, interessante. Grazie Pierluigi Saccardi, vicepresidente della provincia di Reggio Emilia, e Carlo Lottieri, che insegna all'Università di Siena dottrina dello Stato. Ci fermiamo qui con Alessandro Longoni. Oggi è il suo compleanno, quindi andate su Facebook 24 Mattino e fate gli auguri ad Alessandro Longoni. Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia, la linea va a Oscar Giannino. Ci sentiamo domani alle 7:20.